buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri a due grandi what if del basket NBA. Swan Nater spegne 74 candeline, protagonista anche in NBA e anche una stagione nel nostro campionato con la maglia di Udine, e compie 73 anni, uno dei playmaker bianchi più forti mai visti. Ernie Di Gregorio. E nuovamente buongiorno amiche e amici sportivi e non sportivi, sono le 8:06 minuti, mattiniere e mattinieri per il Move to Groove, tra basket, caratteristiche, filosofia, storie. Intanto grazie per questa bellissima doppia palla a due a Paolo Onofri che ci seguirà da remoto. Intanto la nostra injured list, lista infortunati, inizia con il nome di Pietro Rossi, causa influenza, al quale mando un caloroso abbraccio, collaboratore, redattore di Radio Città Fujiko per il Breakfast Club, e una pronta guarigione. Swan Nater, a proposito di storie, bisognerebbe fare una puntata solo per questo grandissimo centro. Intanto chiedo consulto a Paolo subito per quanto riguarda stagione NBA come centro puro. Ti viene in mente un centro più forte di Swan Nater? Perché oltre che Artis Gilmore, che domina assolutamente, ma al secondo posto, per me un what if, ma per chi è veramente appassionato e conosce determinati percorsi, a me non viene in mente altro. Ok, potrei dire Dan Issel, ma giocava anche da 4, non era esattamente un centro puro. Sto parlando di pivot, sto parlando di un centro puro, e per me Swan Nater è stato assolutamente dominante in NBA. In NBA ha partecipato a diversi All-Star Game, ha vinto per 2 stagioni la classifica dei rimbalzisti, che è indispensabile per l'economia di una squadra, ha girovagato con una carriera lunghissima che l'ha portato al termine in Italia di fianco a Praia, la Volpe, Drazen Dalipagic, con una coppia di stranieri, Dalipagic e Nater, che per me è stata tra le più forti di tutti i tempi. Centro tipico, questo non vuol dire assolutamente banalità, anzi averne. Questo ragazzo alto 2,11, olandese, rimasto orfano in tenera età, viene affidato alla zia. La zia non riesce economicamente a sostenere la presenza di Swan, che intanto cresceva in maniera smisurata, se vogliamo. Arriverà alla statura di 2,11. Giocatore concreto, costante, importante, affidabile, tecnicamente ineccepibile. Alcuni scout NBA osservarono questo ragazzo sventurato, lo portarono negli Stati Uniti, andò a UCLA. E lo stesso Bill Walton dirà: guardate, se io sono Bill Walton è perché io ogni sera mi allenavo di fianco a Swan Nater. Non è stato solo uno sparring partner, ma è stato veramente un avversario d'allenamento importante. E come ben sappiamo, Bill Walton è il più grande centro bianco nel periodo di vera pallacanestro, giocatore fenomenale. Swan Nater resta per NBA un centro importantissimo, al quale facciamo i nostri più cari auguri, e anche una figura che ha vissuto con diverse difficoltà, che ha saputo superare brillantemente con una carriera lunghissima. Quello che purtroppo la vita ha portato con i lutti di famiglia, lui ha portato avanti invece una vita di costruzione, di soddisfazione, e soprattutto, questo grazie a madre natura, anche al lavoro, ha un talento eccezionale in ambito cestistico. Per me Swan Nater è un esempio. Oggi il tema fondamentalmente sarà la pubblicità, che come ben sapete dicono sia l'anima del commercio, ma avremo dei brani, per così dire, che non solo uno in particolare per uno spot, avremo anche uno spot o un paio di spot dedicati alla NBA e alcune marche. Beh, chiaramente le scarpe la fanno da padrone in questo caso, ma non solo. Si parlava di anima del commercio, mentre io preferisco partire in musica con lo spirito, The Spirit of the Boogie. Loro sono i Kool & the Gang, a tra poco. Sicuramente la NBA era tra i primi 5, c'erano anche buoni giocatori, buoni, più che buoni, c'era Billy Pauls, Jim McDaniels, buoni anche loro, ma Nader si difendeva bene. Let's go, yo. Vuoi sapere aneddoti su Nader, soprattutto in maglia Lakers? Ecco, citofona da Filippi che me l'ha raccontato un paio da sgrasciarsi. Esatto, Willy, due volte campione sì nella UCLA come backup di Walton, e fammi dire, forse il backup più forte dell'intera storia del college nel ruolo di pivot. Come on, come on. Spirit of the Boogie. Huh. Come on now. Feel it. It's on. Come on now. Pop your fingers. Hey. It's a boogie, yo. Get down. Got to feel it. The spirit of the boogie. Let's ride. Come on now. Get up. Just feel the spirit of the boogie. When it hits you, just let it flow. Cause when the boogie comes to get you, you ain't got nowhere to go. Just feel the spirit of the boogie. Let it ease right on inside. Feel the spirit. It's a boogie, y'all. Just let it ride. Come on. Get up. Get up. Feel it. Quanto riguarda questo brano, che ho conosciuto grazie a uno degli spettacoli che per me culturalmente parlando è stata colonna portante della mia vita, non solo della mia infanzia, è il Muppet Show. Il Muppet Show aveva una band ovviamente fatta da pupazzi animati, e tra questi vi era l'Aquila, molto seriosa, che rappresentava l'establishment degli Stati Uniti d'America, che veniva regolarmente criticata dai protagonisti del Muppet. Ecco, su questo brano l'Aquila inizia un pochettino a partecipare alla band con modalità un po' scettica, un po' ritroso, e finisce in questo ballo funky tutti i tempi con lo spirito del boogie, the spirits of the boogie. Su One Nighter, un esempio veramente di abnegazione di lavoro. Non sono legatissimo a queste storie strappalacrime dal Bronx o da situazioni familiari, insomma vedo molto di più per quello che è il talento, ma è inevitabile, non si può restare non colpiti da questo ragazzo, tra l'altro olandese, quindi non con una cultura sportiva americana, che la vita purtroppo ha riservato essere orfano in tenerissima età, dalla zia non è potuto restare, viene messo in orfanotrofio, la sua crescita, pensate che determinazione, pensate anche, perché no, le prese in giro che ha subito, l'arrivo a Los Angeles in UCLA, e ha trovato un motivo di lavoro, di impegno per arrivare a essere un centro dominante dell'NBA. Buongiorno a Lino, sì, perché vi sono diversi, diciamo, motivi di divagazione in questo Move to Groove. Ad esempio, uno è legato a un messaggio che ho perso da Lino la volta scorsa, che ci tenevo però a proporre. Buongiorno Move to Groove, un po' gelato, un po' così con i fiocchi di neve da Santa Maria Maddalena. Saluto Lino. Coach, sergente di ferro, boh, nelle giovanili per me molti coach ci giocano per fare carriera, sì, come abbiamo detto la scorsa puntata, sulla pelle dei ragazzi. Intanto, William, hai visto il video del tuo idolo che ti ho mandato? No, ma guarda che per me Jokic è un grandissimo giocatore, ci mancherebbe, è semplicemente un contesto sul quale è arrivato, non è la critica a un fenomeno, un giocatore fortissimo, certamente. Lo descriviamo magari anche con l'aiuto critico di Paolo. Allora, Jokic riceve spalle a canestro, fa un dorsale verso il fondo, va a appoggiare al tabellone, e il commentatore, il vero protagonista di questo spaccato quotidiano di NBA, che inizia a fare una cronaca di questo elementare movimento a livello di propaganda, è un movimento, la ricezione spalle a canestro, il giro dorsale verso il fondo, non fa neanche la finta verso il centro. Ovviamente l'aiuto difensivo inesistente, ed è andato a appoggiare al tabellone. Il cronista ha iniziato come se fosse Rock the Baby di Julius Irving, un commento esaltante. Ho detto: beh, ma scusate, questo ha fatto un dorsale sul fondo. Cioè, è un altro sport, non, dai, non raccontiamocela, è un altro mondo. Anche a me piacevano i Muppets, mi ricordo una volta che vidi una puntata americana dove il protagonista c'era Dr. J. Julius, sì, Irving, che rispondeva a delle domande dei pupazzetti Muppet da dentro un bidone della Nettesto Urbana. Adesso non ho mai capito perché, però Julius con la canotta dei 76ers di Philadelphia, grande protagonista. Sì, i dorsali ne ho visti parecchi, anche di belli. Hakeem Olajuwon era un esperto in questo. Poi negli anni 80 c'era James Worthy, che era un artista della linea di fondo, Kevin con McCain, questa specialità. Ma la cosa che mi ha fatto più, diciamo, ridere sotto i baffi è che l'ha fatto con una velocità, ai due all'ora, di una lentezza che il difensore era proprio alle aste a livello di difesa, ma in un altro contesto l'avrebbero fermato in un attimo, secondo me. Seppure avversario, grande Paolo che hai fatto questa citazione. Parliamo di vero basket, non di ste robe qua, che ormai non si possono neanche guardare. È vero, nonostante io non sia un suo tifoso, lo ammetto, ma la velocità sul giro dorsale verso il fondo, James Worthy, veramente per lui era l'arma, the weapon. first weapon. That's to shoot, that's magic, do what he was born to do. It may be so, but that's not all. They let Isaiah play like he's 10 feet tall. For the kind of moves that never fail, the weapon's the choice of Kevin McHale. The same is true for Mark McGuire. When I wear weapons, I'm on fire. Well, what can the weapons do for King? Why, I can do just about anything. You already know what you did for me. What? I walked away with the MVP. The Converse weapon. The number one weapon in the NBA. Questa per me è la pubblicità più bella, dove Magic Johnson dice: io sono Magic, posso fare magie perché ovviamente ho l'arma The Weapon, vi ho lasciato con James Burt e la sua arma al giro verso il fondo velocissimo. Beh, con Magic Johnson si inizia questo All-Star composto da 6 giocatori, da 6 fenomeni, e lui dice: grazie a Converse riesco a fare tutto ciò. Isaiah Thomas si aggiunge, ovviamente arrivano altri come Bernard King, probabilmente uno dei più grandi nel ruolo di numero 3 di sempre, come Mark Aguirre. Del resto, alla fine Kevin McHale dice: io posso fare i movimenti che vi mostro ogni partita grazie a Converse. È la pubblicità, chiaramente, quindi è e alla fine con il trofeo di MVP, cioè di miglior giocatore in assoluto, si presenta The Legend Larry Bird con il suo ghigno beffardo e dice: certo, siete tutti bravissimi, ma a me Converse mi ha accompagnato verso l'MVP, cioè essere il giocatore più forte della stagione. Da forse più conosciuta della storia degli anni 80, sì. 5 giocatori forse più forti del periodo a pubblicizzare una nota scarpa che andava per la maggiore, la Converse All Star. Ecco, sulla qualità del prodotto mi sento un po' di sentire, perché è una delle scarpe più scomode che abbia mai provata, però la pubblicità in sé è una delle più belle mai viste. Don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing in the side when you check it. Immaginato musiche come i Kool & The Gang, come adesso il capolavoro da Inner Vision 1973 di Stevie Wonder, poi ripreso da diversi artisti, i più importanti gli Incognito con Don't You Worry About A Thing. Don't worry, don't worry. musica importante a dir poco, per commentare le immagini e per dare oltretutto un motivo di stimolo in più per abbinare al prodotto il ricordo che ti tenga a mente quella determinata marca o quella determinata realtà da pubblicizzare, e anche il testimonial, 6 testimonial, vado a ricordarli a memoria: Magic Johnson, Isaiah Thomas, Larry Bird ovviamente, Mark Aguirre, Bernard King e Kevin McHale. È costata qualcosa quella pubblicità lì. He's a man with a plan, got a counterfeit dollar in his hand. Sì, confermo il giudizio, non stiamo facendo pubblicità negativa, anche perché ognuno di noi poi ovviamente ha le proprie caratteristiche. Il piede nella pallacanestro è fondamentale, tanto più che ne soffro a distanza di anni per una carriera non certo brillante, ma insomma lunga. Il piede è fondamentale, cambio di velocità, il piede tocca terra ovviamente per primo, dopo tutti i salti, dopo tutti gli scivolamenti, dopo i cambi di direzione, i cambi di velocità, i giri dorsali, e non siamo piccolissimi come peso di ricaduta sopra una pianta che deve trovare un'accoglienza all'interno di una calzatura adeguata. Ricordi, ogni stagione si aveva 2 paia di scarpe a disposizione. Sto parlando delle giovanili, poi la prima squadra, magari anche una a partita, ma 2 paia di scarpe a disposizione. E se ti vedevano fuori con il paio di scarpe che dovevi usare unicamente sopra il parquet, solo sopra il parquet, se ti vedevano fuori con le scarpe che ti erano state consegnate, mamma mia, disastro, eh. Quante multe! Pubblicità anche nelle scarpe, e particolare la caratteristica dell'anno yoga in cui lo sponsor era Pony. Leon Douglas e John Douglas tolsero il baffo della Nike e misero la V di Pony per le partite e ovviamente per giocare e presentarsi davanti al pubblico, all'attenzione di uno sponsor tecnico che però insomma doveva essere quello. Take my word, please beware of a man that just don't give a care. No, he's Mr. Ecco, questa era una particolarità per quanto riguarda sponsor e pubblicità. Sostituire il logo, giustamente Paolo ha detto, io non mi trovavo benissimo con le Converse, neanch'io, certo. Non vi era l'attenzione per noi come c'era per grandissimi cestisti, ma indubbiamente il piede poi deve essere accolto in un certo modo, e quindi le stelle, chi se lo poteva permettere, aveva questa modalità di sostituzione per continuare a portare la calzatura con la quale avesse modo di portare la competizione nel migliore dei modi. Sam & Dave, Shoot Me, ci accompagna alla pubblicità. Rientriamo tra poco con la seconda parte di Move to Groove, speciale pubblicità. Everybody, come on and clap your hands, will you? Just for me now. I like it like that. Tune me, baby. L'ho sentito da un grappolo d'uva. Beh, la traduzione di questo modo di dire può essere, per l'italiano, si sente dire in giro. Me l'ha detto un uccellino, ecco, voce di corridoio, si sente dire in giro, e I heard it to the grapevine. Me l'ha riferito così, l'ho ascoltato, l'ho sentito fra i grappoli d'uva. Paghiamo dalla pubblicità, sempre di abbigliamento, un altro gigante in questo caso dell'abbigliamento. E perché questa pubblicità? Perché a parte che Marvin Gaye per me è un tutti i tempi, la Motown altrettanto, la produzione di Norman Whitfield e tutto quello che è nel contesto della grandissima Detroit in musica, certamente è musica che può essere adattata per quanto riguarda reclam. E infatti la pubblicità di una nota marca di jeans portava in una lavanderia a gettone, caratteristica degli anni 60 americani, un modello bellissimo in maglietta e jeans e basta. E praticamente tra tutte queste casalinghe in attesa, appena vedono entrare questo ragazzo bellissimo, restano così, giustamente volgono lo sguardo, e lui deve caricare il proprio bloody lavatrice a gettone, che fa, inizia a spogliarsi restando solamente in boxer, creando un po' di scompiglio. E perché tutto ciò? Perché piuttosto sto nudo, ma io il mio paio di jeans, vabbè, dico la marca Levi's, certamente non lo abbandono, piuttosto resto in mutande. E beh, se in mutande resta questo modello di cui non ricordo il nome, tra l'altro recentemente scomparso, ed è stato anche assieme, è stato uno dei fidanzati di Madonna. Julius Irving della musica, ma poi in seguito, se parliamo di pubblicità, è inevitabile. Beh, siamo arrivati a grandissimi. Se la Converse era un po' scomoda, altre marche con qualche perplessità, insomma, la Nike resta per la pallacanestro, e certamente il testimonial, Just Do It, lo slogan, il logo, e Michael Jordan che fa i milioni su milioni come testimonial principale della Nike. grazie Francesca, e Nick Cave non mi veniva in mente, grazie, mi era morto il neurone degli anni Ottanta. Il brano nello spot non era interpretato da Marvin Gaye, il brano è Motown, ma in quel caso la musica veniva portata dai Creedence. Last, brano Marvin Gaye nell'interpretazione nella colonna sonora di quest'oggi al Mood Groove, e si può procedere fino ai giorni nostri con la serie che sono diventate anche oggetto d'arte. Ci sono diversi cataloghi per quanto riguarda e diverse anche produzioni per la serie Jordan. I giovani sono anche nel contemporaneo attaccatissimi, legatissimi, anche insospettabili, che per prima cosa tra i coetanei a me mette una certa tristezza, per motivi, permettete la parola, professionali. Avevo necessità di attenzione per le scarpe, ma anche ragazze e ragazzi che non hanno assolutamente questa necessità per le scarpe, ancor più che ai tempi anni 80, in cui insomma pensate paninari e quant'altro, ma tuttora guardano con attenzione, come ho detto, in maniera insospettabile, a tutto ciò che è il mondo delle calzature. But the right words don't come my way. I only know when I'm in your embrace. Hey, this world seems a happy place. Ah, something happens to me. Girl, it's some kind of wonderful. And it's wonderful, baby. Beh, chiaramente non essendo molto competente, quindi anche le marche che ho citato non è motivo di pubblicità, è unicamente cronaca. C'era una pubblicità, e qui chiedo aiuto a Paolo, dove Larry Johnson, giocatore molto forte, per Charlotte Hornets, una prima scelta, Larry Johnson fa uno contro uno con sua nonna. Ovviamente la nonna ne esce vincente perché indossa quel paio di scarpe. Honey, honey. Ovviamente The Grandma Larry Johnson non è altro che Larry Johnson con una parrucca, con gli occhialoni, con il vestito tipico della mami, e qui nella pubblicità per questa marca di cui non ricordo assolutamente il nome, Larry Johnson testimonial anche travestito da nonna. I got to dance. portato come una medaglia, pur avendo vissuto il nefasto decennio degli anni Ottanta, quello di non aver mai avuto né indossato un paio di Timberland. Mai. The Fat Back Band, questo brano da cui l'editing i più attenti avranno riconosciuto My Friend dei Groove Armada, il titolo è Got to Learn How to Dance, quindi come imparare a ballare. Certamente con questo ritmo ne abbiamo ben possibilità. Sono arrivate le 8:45, sta volgendo al termine questa imprevedibile puntata nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fugico, con i miei più cari auguri di pronta guarigione a Pietro Rossi, magari Pietro è all'ascolto, l'attenzione per quello che è il mondo della pubblicità all'interno della NBA, soprattutto negli anni che furono, certamente l'arrivo di un commissioner molto attento a tutto ciò come David Stern ha influito per la diffusione oltreoceano e non solo in tutto il mondo di queste attenzioni. Lui veramente ha svoltato per quanto riguarda la diffusione della pallacanestro in generale, ma soprattutto ovviamente nella NBA. Chiamava Clarabella, Clarabella Johnson, detto Grandmama, sponsorizzava la scarpa anche lui Converse, le prime Converse degli anni 90, e vedevi Larry Johnson travestito da nonnina che andava a fare il mazzo ai giovani ragazzi nei playground americani. Ma in realtà era Larry Johnson. Tanto che mettiamo questo brano come sigla di chiusura per il Move to Groove di oggi, aggiungo anche una parte dove già, insomma, un'apertura verso la normalizzazione, dove una pubblicità, un'immagine sempre più presente con gli integratori, anche quelli furono molto, molto, e lo sono tuttora, immagino, presenti per quanto riguarda la reclame cestistica. Clarabella Grandmama, ci fecero anche una puntata del telefilm The Family Matters, meglio nota come Otto sotto un tetto in Italia, dove appunto c'è un torneo al playground e c'è anche Larry Johnson che ne fa parte, travestito proprio da nonnina. Due metri e uno, largo due volte me, penso che l'abbiano riconosciuto subito, non ci sia travestimento che tenga. Ma del resto la pubblicità è questo, è anche portare un motivo teatrale con il travestimento. Usate integratori minerali unicamente se necessari, se consigliati, se in seguito a un'attività veramente molto, molto, molto, molto intensa. Non abusate, va da sé, di tutto ciò al quale io sono molto contrario per i danni che portano. per cui questa attenzione di conclusione è come se fossero le notizie che vanno per leggere il bugiardino in determinati farmaci, ma senza fare omelie. Vi invito alla puntata di domani con il Voltiamo Pagina nella prima colazione in diretta, ringraziando Paolo Onofri per gli interventi da remoto. Che lei non era secondo a nessuno, sdoganò il marchio NBA in tutto il mondo, soprattutto con l'aiuto dei giocatori dei tempi che erano fortissimi, però secondo me la pubblicità più bella è quella della McDonald's, dove Larry Bird e Michael Jordan si sfidano in una gara di tiro, di tiri impossibili, dove alla fine si concludono che tirano addirittura dalla luna e la palla comunque sempre nothing but that. E con questo concludiamo puntuali più o meno, dando appuntamento a domani con il Move to Groove, martedì prossimo e domani il Voltiamo Pagina con Silvia Albertazzi e i consigli letterari anche in video dal sito www.radiocittafugico.it. Io vi ringrazio per l'attenzione, alle 10.30 ci sarà rassegna stampa, una replica del Vinile Quotidiano curata da Andrea Gozza. Ora vi lascio con l'Edipeo Enciclopedico e vi auguro un buon ascolto e una buona giornata, non manco di mandarvi un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.